Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Il brigadiere cominciava a stancarsi. Si sentiva come un cane costretto a seguire il cammino del cacciatore attraverso una pietraia arsa, dove non stinge la più tenue traccia di selvaggina. Un lungo contorto cammino. Sfioravano appena i morti ammazzati e subito allargavano il giro. La chiesa, l'umanità, la morte. Una conversazione da circolo, Cristo di Dio, e con un delinquente. «Lei ha aiutato molti uomini», disse il capitano, «a trovare la verità in fondo a un pozzo». Don Mariano gli aprì in faccia occhi freddi, come monete di nickel. Non disse niente. «E il Di Bella era già nella verità», continuò il capitano, «quando scrisse il suo nome e quello di Pizzuco». «Nella pazzia era, altro che verità». «Non era pazzo. Lo avevo fatto venire subito dopo la morte di Colasberna. Già avevo avuto delle informazioni anonime che mi permettevano di collegare l'omicidio a determinati interessi. Sapevo che a Colasberna erano state rivolte proposte e minacce, che gli avevano persino sparato, ma per avvertimento. E a Di Bella ho chiesto se poteva darmi informazione sull'identità di colui che aveva fatto proposte e minacce a Colasberna. Smarrito, ma non tanto da darmi una sola e giusta traccia, mi diede due nomi. Uno dei due, come ho poi constatato, soltanto per confondermi. Ma io volevo proteggerlo. Né d'altra parte potevo permettermi l'errore di fermare i due indicati dal Di Bella. Uno dovevo fermare, a colpo sicuro, poiché appartenevano a due cosche in contrasto e uno dei due doveva essere nettamente fuori, o il La Rosa o il Pizzuco. Nel frattempo veniva denunciata la sparizione del Nicolosi e mi sorpresero certe coincidenze. E anche il Nicolosi, prima di sparire, ci aveva lasciato un nome. Abbiamo messo le mani su un certo Diego Marchica, che certo lei conosce, e ha confessato... «Diego!» esplose incredulo Don Mariano. «Diego!» confermò il capitano, e ordinò al brigadiere di leggere la confessione. Don Mariano seguì la lettura con un ronfare che pareva d'asma, e invece era di rabbia. Diego, come vede, ci ha portato a Pizzuco senza farsi pregare, e Pizzuco a lei. «A me non vi ci porta nemmeno Dio», disse con sicurezza Don Mariano. «Lei ha molta stima per Pizzuco», constatò il capitano. «Non ho stima per nessuno, ma conosco tutti. Non voglio deluderla, per quanto riguarda Pizzuco, tanto più che Diego le ha dato una grande delusione». «È un cornuto», disse Don Mariano, la faccia sformata da un'incontenibile nausea. E fu un segno di inaspettato cedimento. «Non le pare di essere un po' ingiusto? Diego non ha nemmeno accennato a lei. E io che c'entro? E dunque perché si arrabbia se non c'entra?» «Non mi arrabbio. Mi dispiace per Pizzuco, che è un uomo a posto. Quando vedo infamità, io mi inquieto». «Lei può garantire che quanto ha detto Marchica a carico di Pizzuco sia del tutto falso?» «Io non posso garantire niente, nemmeno una cambiale da un grano». «Ma non crede che Pizzuco sia colpevole?» «Non lo credo». «E se fosse il Pizzuco stesso a confessarlo e a chiamare lei come complice?» «Direi che gli è sfuggito il senno». «Non è stato lei a incaricare Pizzuco di sistemare con le buone o con le brusche Colasberna?» «No». «Non ha compartecipazione o interessi in imprese edilizie?» «Io, manco per sogno». «Non è stato lei a raccomandare l'impresa a Smiroldo per un grosso appalto ottenuto con modalità a dir poco inconsuete grazie alla sua raccomandazione?» «No». «Sì, ma io raccomandazioni ne faccio a migliaia». «Di che genere?» «Di ogni genere. L'appalto, il posto in banca, la licenza liceale, il sussidio». «A chi rivolge le sue raccomandazioni?» «Agli amici che possono fare qualche cosa». «Ma di solito a chi?» «A chi mi è più amico, a chi può fare di più». «E non ricava qualche vantaggio, qualche profitto, qualche segno di riconoscenza?» «Ne ricavo amicizia». «Tuttavia, qualche volta?» «Qualche volta, a Natale, mi regalano la cassata». «O un assegno». Il ragioniere Martini, della ditta Smiroldo, ricorda un assegno per una grossa cifra intestato a suo nome dall'ingegnere Smiroldo. L'assegno gli è passato per le mani. Forse era un segno di riconoscenza per il grosso appalto ottenuto, o la ditta aveva avuto da lei altri servizi. «Non ricordo. Poteva anche essere una restituzione. Fermeremo l'ingegnere Smiroldo, poiché lei non ricorda. Ecco, così io faccio a meno di sforzarmi a ricordare. Sono vecchio, la mia memoria qualche volta inciampa. Posso fare appello alla sua memoria almeno per quanto riguarda un fatto più recente? Vediamo. L'appalto per lo stradale Monterosso-Falcone. A parte il fatto che lei è riuscito ad ottenere il finanziamento per una strada completamente inutile, su un tracciato impossibile, e che è stato lei a ottenere il finanziamento, ne abbiamo la prova nell'articolo di un corrispondente locale che gliene dà merito. A parte ciò, l'impresa Fazello non deve a lei l'attribuzione dell'appalto? Così mi ha detto il signor Fazello, e non credo avesse ragione di mentire. Non ne aveva. E ha saputo, sotto una qualsiasi forma, dimostrarle riconoscenza? Come no? È venuto a soffiare qui la storia. Mi ha pagato di misura e con l'aggiunta. Avevano ritirato i biglietti all'ingresso di Via della Missione, un'ora prima che la seduta cominciasse. Avevano gironzolato in galleria, preso il caffè da Berardo, indugiato a guardare i rotocalchi attaccati alle edicole. Roma si incantava in una dolce sfera di luce, in un quieto passeggio appena sfiorato dal guizzo delle automobili e dallo stridere lungo dei filobus. La voce degli strilloni, il nome del loro paese gridato dagli strilloni insieme alla parola delitti, suonava irreale e lontano. Mancavano da due giorni dal paese. Avevano già parlato con due grandi penalisti, un ministro, cinque o sei deputati, tre o quattro ricercati dalla polizia, che nelle osterie e nei caffè del testaccio si godevano il dorato ozio di Roma. Si sentivano piuttosto tranquilli e l'invito dell'onorevole a visitare Montecitorio, ad assistere ad una seduta in cui il governo avrebbe risposto alle interrogazioni sull'ordine pubblico in Sicilia, era parso loro il modo più felice di concludere una trafelata giornata. I giornali della sera dicevano che il fermo di Marchica, Pizzuco e Arena era diventato arresto. Il procuratore della Repubblica aveva spiccato i mandati. Da quel che i giornali erano riusciti a fiutare, il Marchica aveva confessato un omicidio e ne aveva caricato un altro al Pizzuco. Il Pizzuco aveva ammesso un involontario concorso nei due omicidi commessi dal Marchica. Due e non uno, come il Marchica aveva confessato. E l'Arena non aveva ammesso niente, né il Marchica e il Pizzuco lo avevano chiamato in correità. Ma il procuratore della Repubblica aveva spiccato i mandati per omicidio premeditato a carico del Marchica, per omicidio premeditato e mandato d'omicidio a carico del Pizzuco, per mandato d'omicidio a carico dell'Arena. Brutta situazione. Ma vista da Roma, in quest'ora che pareva ricreare la città nella felice aerea libertà di una bolla di sapone, luminosa, iridata dei colori delle donne e delle vetrine, quei mandati di cattura parevano salire leggeri come aquiloni a far carosello in cima alla colonna Antonina. Era quasi l'ora. I due si infilarono nel sottopassaggio e nel flusso variopinto fatto più vivido dalla cruda luce fluorescente delle vetrine, coi loro cappotti scuri, le facce nere come quella del santo patrono di esse, i segni del lutto, il silenzioso linguaggio di gomitate reciproche e occhiate esclamative con cui si segnalavano e salutavano il passaggio delle belle donne, col loro andare di prescia, colpivano per un momento l'attenzione della gente. I più li credevano agenti di questura che stessero inseguendo un borsaiolo ed erano invece, insieme, un pezzo di questione meridionale. Gli uscieri della camera li squadrarono con diffidenza, si passarono i loro biglietti, chiesero le carte d'identità, poi li invitarono a togliersi i cappotti. Finalmente furono accompagnati a un palco, proprio come un palco da teatro. Ma la sala non somigliava ad un teatro, vi si affacciarono come dall'orlo di un enorme imbuto e sotto un cupo liquido formicaio. La luce era quella che al loro paese annunciava certi temporali, quando le nuvole spinte dal vento del Sahara, raccogliendosi in un lento ribollire, filtravano luce di sabbia e d'acqua, una curiosa luce che dava alle cose una superficie di raso. prima che sinistra, centro e destra si rapprendessero da astratti concetti che nella loro mente erano, nella concreta topografia della camera e nelle facce più note, ci volle un po' di tempo. Quando la faccia di Togliatti apparve da dietro un giornale, seppero di avere di fronte la sinistra. Girarono con lenta precisione di un compasso lo sguardo verso il centro. Segnarono di un indugio la faccia di Nenni, quella di Fanfani. Ed ecco l'onorevole cui dovevano lo spettacolo. Pareva li stesse guardando e gli fecero un cenno di saluto con la mano. Ma l'onorevole non se ne accorse. Chissà cosa stava guardando coi suoi pensieri. Quel che li impressionava era il movimento dei commessi, continuo, da un banco all'altro. Pareva dare a tutta la sala un meccanico movimento da telaio. E veniva su un mormorio che pareva appartenesse eguale e continuo al vuoto della sala, piuttosto che alla presenza di quei gruppi di persone sparuti e assorti nell'anfiteatro dei banchi. Di tanto in tanto squillava una campanella. Poi una voce cominciò a galleggiare in quella luce di rena. Pareva alzarsi come una chiazza d'olio sul livello man mano crescente del mormorio della sala. Non riuscivano a localizzare la sorgente di quella voce, finché dal presidente che scampanellava i loro occhi non scesero a quello che doveva essere il banco del governo, se vi sedeva vicino all'uomo che parlava, il ministro Pella. «Vogliamo il ministro!» gridarono dai banchi di sinistra. Il presidente suonò la campanella. Disse che il ministro non aveva potuto, che c'era il sottosegretario, che era la stessa cosa, che lo lasciassero parlare, che nessuno aveva voluto mancare di rispetto alla Camera. Come avesse detto niente. Il ministro!» continuarono a gridare da sinistra. «È cresto, lasciatelo parlare!» disse uno dei due spettatori, ma soltanto all'orecchio del compagno. Lo lasciarono parlare. Il sottosegretario disse che il governo non vedeva nella situazione dell'ordine pubblico in Sicilia motivi di particolare preoccupazione. Clamore di protesta a sinistra. Stava per afflosciarsi quando da destra una voce gridò: 20 anni fa in Sicilia si dormiva con le porte aperte! I deputati dalla sinistra, quasi fin dentro al centro, si alzarono in piedi vociando. I due si sporsero dalla tribuna per vedere il fascista che sotto di loro, con voce da tauro, rispondeva: «Sì, 20 anni addietro c'era ordine in Sicilia e voi l'avete distrutto!» E girò la mano con l'indice puntato in accusa da Fanfani a Togliatti. I due ne vedevano la testa rasa e la mano accusatrici. Concordi mormorarono: «L'ordine delle corna che ha in testa!» Il suono della campanella fu prolungato e frenetico. Il sottosegretario riprese a parlare. Disse che sui fatti di esse, cui gli onorevoli interroganti si riferivano, il governo non aveva niente da dire, essendo in corso l'inchiesta giudiziaria. Riteneva comunque il governo quei fatti scaturissero da comune delinquenza, respingendone l'interpretazione che ne davano gli onorevoli interroganti. E fieramente, sdegnosamente, respingeva il governo l'insinuazione che le sinistre venivano facendo sui loro giornali, che membri del Parlamento o addirittura del governo avessero il sia pur minimo rapporto con elementi della cosiddetta mafia, la quale, ad opinione del governo, non esisteva se non nella fantasia dei socialcomunisti. La sinistra, che era ormai fitta di deputati, levò un tuono di protesta. Un deputato, alto, grigio, quasi calvo, scese dal suo banco avviandosi verso quello del governo. Si trovò davanti 3 commessi, gridò al sottosegretario insulti che pensarono i 2 spettatori, «Qui venisce accoltellate». La campanella era impazzita. Scattando dalla destra come un grillo, il deputato dalla testa rasa si trovò al centro della sala. Altri commessi corsero a trattenerlo. Gridò verso sinistra i suoi insulti. La parola cretino volò a nugoli, ad ondate, sfiorando la sua testa massiccia come le frecce degli indiani, quella di Buffalo Bill. «Qui ci vuole un battaglione di carabinieri», pensarono i 2, per la prima volta nella loro vita, ammettendo che i carabinieri potevano servire a qualcosa. Guardarono dalla parte dove stava l'onorevole. Era tranquillo. Si accorse del loro sguardo e, sorridendo, li salutò con la mano. Tony